Lo sforzo è fatto di 10 parti. Una parte è quella che consiste nel guerreggiare in armi contro gli aggressori dell'Islam, e le altre 9 consistono nel guerreggiare contro te stesso. Se non puoi ottenere quello che ti spetta senza litigare e ricorrere all'autorità giudiziaria, rinuncia al tuo diritto pur di conservare intatta la tua religione. Chi fa compagnia ai genitori costretti a letto dalla malattia è migliore di colui che sguaina la spada nel jihad per la difesa dell'Islam dall'aggressione della miscredenza. Ci sono 4 massime che valgono più di 4.000 discorsi. Non ti fidare di una donna allegra, non lasciarti sedurre dal denaro, non mangiare troppo e impara soltanto quello che ti può giovare. Ama l'oscurità e fuggi la notorietà, ma non insuperbire per la tua vita oscura. Il colmo dell'umiltà è uscire di casa e non incontrare nessuno che non sia migliore di te. Se non temi che Allah possa castigarti per la migliore delle tue opere, allora sei perduto. Il virtuoso resta tale finché non si avvede della propria virtù. Il nemico che ti denigra ti giova di più di un amico, perché ogni volta che dice male di te passa da lui a te il merito delle sue buone azioni. Chi cerca un fratello senza difetti è destinato a rimanere senza fratelli. 3 persone non sono condannabili se si irritano: il malato, il digiunante e il viaggiatore. Ricerca la scienza con lo scopo di agire e non essere come la maggioranza degli uomini, la scienza dei quali forma montagne mentre le loro opere sono granelli di polvere. A tutti quelli che si fingono quello che non sono, la falsità impedisce di vedere la verità. Allah è verità e la sua parola è verità. Non è ragionevole chi, dopo essersi dedicato alla scienza e averla raggiunta, preferisce le passioni. Chi pretende giustizia dagli altri ma non li tratta con giustizia, chi dimentica l'obbedienza ad Allah e poi lo invoca quando ne ha bisogno. Fra i tanti cuori ce n'è uno che chiede perdono ad Allah ancor prima di avere peccato e che viene ricompensato ancor prima di avere obbedito. Sii umile con tutte le creature di Allah, ma guardati dall'umiltà di chi la pretende da te, perché questa pretesa dimostra prepotenza e falsità, e la tua acquiescenza sarebbe un incoraggiamento a persistere. Quando Allah vuole il bene di un suo servo, gli chiude la porta della discussione e gli apre quella dell'azione. Quando vuole il suo danno, fa il contrario. Se vuole il suo bene, lo salva dalle delusioni e lo colloca in mezzo ai poveri sinceri. Se vuole il suo danno, lo esime dalle opere buone finché il cuore gli diventa più pesante delle montagne e lo colloca in mezzo ai ricchi. Chi vuole essere onorato in questo mondo e salvo nell'altro, non abbondi in discorsi, non faccia da testimone, non aderisca a nessun gruppo e non mangi con nessuno. Frequentando i cattivi si pensa male dei buoni e frequentando i buoni si pensa bene dei cattivi. Allah non accuserà mai nessuno domandandogli: perché hai avuto buona opinione dei miei servi? Ieri è morto, oggi sta passando, domani non è ancora arrivato. Affrettati dunque alle opere buone. La luce della conoscenza che hai raggiunto non deve oscurare il tuo timore di Allah. La più grande forza è quella di chi vince se stesso, e chi non è capace di educare se stesso non è capace di educare gli altri. Chi riposa sulla voce pubblica che lo proclama amico di Allah è prigioniero di se stesso. Due cose allontanano il devoto da Allah: darsi a devozioni supererogatorie trascurando quelle di precetto e operare con le membra senza adesione del cuore. I migliori musulmani sono quelli che la vita futura non distoglie dalla vita terrena e la vita terrena non distoglie dalla vita futura. La scienza la si cerca innanzitutto per operare. Se lo studioso passa tutta la vita ad accumularla, quando mai la metterà in pratica? Il vero credente dimostra la sua qualità con le azioni, quello finto con le parole. Il vero credente è uno che, avendo piantato una palma, teme di vederla produrre spine, e l'ipocrita è come quello che, avendo piantato un rovo, desidera raccogliere datteri. La vita mondana cerca chi la fugge e fugge chi la cerca. Se chi fugge viene raggiunto da lei, viene ferito. Se chi la cerca la trova, viene ucciso. Non devi curare la pulizia del vestito più di quella del cuore. Chi pretende di possedere tre qualità senza possederne altre tre è un bugiardo. Se dice di amare Allah e non si astiene da quello che Allah ha vietato, dice il falso. Se dice di amare il paradiso e non spende quello che possiede per obbedire ad Allah, mente. Se dice di amare il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e non ama la povertà, ti inganna ed inganna se stesso. Come tu ti comporti nei confronti di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, così le sue creature si comporteranno con te. Non chiedere consiglio a un sapiente se vedi che desidera la ricchezza, perché chi ha tradito se stesso non può dare buoni consigli agli altri. Paziente è chi sopporta con fermezza, non chi sopporta lamentandosi. L'errore sta nel primo passo, la salvezza nell'ultimo. Se un uomo che sa a memoria il sublime Corano corre pericolo di ribellarsi ad Allah, il sublime Corano da dentro il petto gli grida: non è per questo che mi hai imparato a memoria. E se il ribelle riesce a udire quella voce, muore di vergogna al cospetto di Allah l'Altissimo. Nel giorno del giudizio il sublime Corano comparirà circondato dai credenti sinceri, orgogliosi come cammelli della Bactriana. Intorno a lui si aggireranno altre persone e il sublime Corano dirà loro: «Indietro! Mi avete abbandonato nella vita terrena, non sarete miei compagni nella vita eterna». Un sacerdote degli Israeliti disse: «Signore, quante volte mi sono ribellato a te e non mi hai mai castigato?» E Allah l'Altissimo ispirò un profeta a rispondergli: «Di al tale, quante volte ti ho punito e non te ne sei accorto? Non ti ho forse privato della dolcezza di conversare con me? Se tu non obbedisci a chi ti ha ricolmato di benefici, come puoi fare il bene a chi ti tratta male?» I discorsi dei primi musulmani giovano più di quelli del nostro tempo, poiché essi parlavano a gloria dell'Islam, a salvazione delle anime, a gradimento del Signore, mentre oggi i più parlano per glorificare loro stessi, ricercando vantaggi mondani e la fiducia della gente. La bellezza del credente sincero sta nell'umiltà. Se insuperbisce, è più arrogante dei ricchi. Se cerchi amicizia, prendi per amico un credente sincero, il quale non ti opprimerà con la sua superiorità. Le cose sono percepite in due modi: quando sono presenti con i sensi, quando invece sono assenti per dimostrazione. Poiché Allah non è manifesto ai nostri sensi, la conoscenza di Lui si realizza soltanto mediante la rivelazione. Chi apre a se stesso la porta di una buona intenzione, Allah l'Altissimo gli apre 70 porte di esito felice, mentre a chi apre la porta a una cattiva intenzione apre 70 porte di delusioni impreviste. Il sapere ha il suo prezzo, perciò non concedetelo senza riceverne il prezzo, che sta nel darlo a chi ne fa buon uso e non lo perde. Quando incontrate un povero, non avvicinatelo con la scienza, ma con la bontà. La scienza, infatti, allontana, mentre la bontà concilia. Quando l'amico ha ritegno di chiedere qualcosa all'amico, in uno dei due c'è qualcosa che non va. È più facile sopportare la solitudine che stare affabilmente in compagnia. Ogni persona sensata sa trovare scuse per chi gli ha fatto un torto, perché sa che è stato l'Altissimo a metterlo in potere di colui che lo ha offeso. L'uomo ha raggiunto il livello della perfezione umanamente possibile quando per lui quattro cose sono equivalenti: il dono e il rifiuto, la vergogna e la gloria. Chi non conosce Allah l'Altissimo in questa vita non lo conoscerà nell'altra. Il pentimento è d'obbligo stretto per qualsiasi trasgressione o colpa, piccole o grandi che siano. C'è gente che percorre i deserti per giungere alla nobile Kaaba, dove ci sono le vestigia dei profeti, ma non percorre la propria anima per arrivare fino al cuore, dove ci sono i segni di Allah. La vita mondana è la tua pancia, nella misura in cui tu sarai severo con essa, avrai la misura della tua coscienza islamica. Per capire se un uomo è intelligente o stupido, tienigli un discorso assurdo. Se lo accetta, è stupido.